agli LP, ai 45 giri e negli ultimi tempi chiaramente anche sui CD. Allora, cominciamo subito, quindi dall'ultimo album del 2015 che si intitola Maja Falò, in cui sono presenti nell'orchestra e suonano alcuni dei membri storici di questo gruppo, come Loco Pierre e Gustave Bente. Questo album contiene 10 nuove canzoni. Noi vi facciamo ascoltare la canzone che ha lo stesso titolo dell'album, quindi Orchestra Poliritmo de Cotonou, Maja Falò. 1, 2. Maja Falò, my wife, I'm Sì, 4 novembre scorso, anniversario della fine di quel massacro, è stata la prima guerra mondiale, un massacro su cui le vicende dei soldati africani sono rimaste ancora più sullo sfondo rispetto alle vicende dei soldati semplici, soldati di trincea, soldati africani chiamati a combattere per una guerra che proprio non li riguardava. E chiamati è un eufemismo, perché se inizialmente l'arruolamento avveniva su base volontaria a partire dal 1915 per fornire i ranghi della Force Noire, e quindi stiamo parlando chiaramente della Francia, dell'esercito francese, come teorizzata dal generale Charles Mangin, tutti i mezzi divennero buoni, anche la coscrizione e la caccia all'uomo. E i britannici e i tedeschi si sono comportati nella stessa identica maniera dei reclutatori dell'esercito francese, tant'è che i tedeschi costrinsero ad arruolarsi la forza gli abitanti di quello allora veniva chiamato Togoland, che era appunto una volta tedesca, mentre invece gli inglesi arruolano in particolar modo soldati provenienti sempre la forza, soldati provenienti dal Camerun. E ci sono esempi di battaglie combattute tra africani, cioè africani contro di loro, combattute per contro dei governi europei. E quindi la delocalizzazione bellica, si può dire, è incominciata ben prima di quella delle fabbriche. Gli africani coinvolti nella Grande Guerra sono stati più o meno 2 milioni, sommando gli portati in Europa e quelli impiegati nei teatri di guerra del continente, si arriva a questo numero decisamente significativo. A scalfire la rimozione del lato africano della Grande Guerra sta diventando un'arte, nel senso che è molto difficile. Un personaggio, l'artista sudafricano William Kentridge, c'è uno che ha tentato a scalfire questa rimozione e ha presentato, sta portando a giro per i teatri, la performance The Head and the Lord, cioè la testa e il peso, che ha presentato ultimamente alla Tate Modern di Londra, alla Galleria Tate Modern di Londra. Kentridge è un nome dell'arte contemporanea e un narratore puntuale dell'apartheid, e il titolo dell'opera è preso a prestito da un proverbio del Ghana: la testa e il peso sono problemi del collo. Il peso nel senso di carico fisico trasportato per tutta l'Africa, e in quello molto più pesante del colonialismo e delle sue drammatiche conseguenze. Un altro elemento che tenta di scolpire appunto questo muro di gomma, questa sorta di omertà rispetto al ruolo dei soldati africani, il numero dei soldati africani durante la prima guerra mondiale, è Frère d'Âme, fratello d'anima, scritto da David Diop, che narra appunto la storia di Alpha Ndiaye, un fuciliere senegalese che ha combattuto sotto la bandiera francese insieme al suo amico più caro Matemba Diop. Matemba viene colpito a morte sotto gli occhi di Alpha Ndiaye, che si ritrova così solo e perduto nella follia del massacro, e a sua volta perde la ragione. Tutto ciò sullo sfondo questo racconto di questi due soldati africani durante prima guerra mondiale ha come sfondo la vicenda di tutti i soldati africani chiamati a combattere appunto per una guerra che proprio non capivano, non li riguardava, ancora di più dei soldati delle potenze degli stati europei. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Wombat, e quindi ci potete ascoltare su wombat.noblogs.org in streaming, oppure al 1359 in onde medie. Sul sito dove potete ascoltare lo streaming ci sono anche i podcast di tutte le trasmissioni passate di Uru, ma anche di tutte le altre. Vi ricordo anche che Radio Wombat ha il proprio profilo Twitter, che è twitter.com/radiowombat, Anche Uru ha il profilo Twitter che è uru-rw. E per parlare con noi della radio su qualsiasi argomento preferite, potete scrivere a posta@insiberia.net. E un altro pezzo dell'orchestra Poliritmo e Cotonou è un pezzo più meno recente, uno dei primi pezzi incisi, e in un periodo in cui l'orchestra Poliritmo e Cotonou aveva aggiunto il prefisso TP, tout poisson, che vuol dire a tutta potenza, a tutta birra sostanzialmente. E il pezzo si intitola Gian Famagni, e in questo caso l'orchestra Poliritmo di Cotonou è insieme a Tidiani Cone. Gian Famagni. Abada, when I did that, Miribali fe

ricordo che Uru va in diretta ogni venerdì alle 21:30, ma se il venerdì non potete ascoltarla, abbiamo anche due repliche che sono la domenica alle 23 e il lunedì alle 8:30. Quindi venerdì 21:30 la diretta e poi la domenica e il lunedì le repliche. E appunto dicevamo a inizio trasmissione la capacità, la traiettoria dell'orchestra Poliritmo Tonù che attraversa la storia musicale e quindi culturale del Benin dal lontano 1966, quando fu formata dal cantante fisarmonicista Clement Melon insieme al bassista Gustave Bento e a Bernard Sundagnon e altri membri temporanei. E questa capacità di essere storia del Benin l'ha portata a incidere anche un pezzo particolare, sia dal punto di vista del testo e anche dal punto di vista musicale, si differisce leggermente da quelle che sono i timbri, la musicalità dell'orchestra Poliritmo. Il pezzo si intitola Omaggio ai martiri del 16 janvier e stiamo parlando appunto del 16 gennaio 1977, quando l'infame, lo possiamo dire, Bob Denard, un mercenario al soldo delle potenze coloniali europee e che ha esplicato, ha tentato di portare avanti colpi di Stato non soltanto in Benin ma anche in altri paesi africani, e quasi sempre, se non sempre, con alle spalle le forze reazionarie francesi, i servizi segreti francesi. Appunto la mattina del 16 gennaio 1977 Bob Denard insieme ad altri mercenari tenta un colpo di Stato in Benin. Un aereo atterra all'aeroporto di Cotonou appunto e inizia l'operazione contro il presidente marxista-leninista Mathieu Kérékou. Perché nel 1977 e in generale nel periodo degli anni 70 il Benin era una democrazia popolare, come e non soltanto di facciata, ma proprio con un tentativo di redistribuzione della ricchezza, un tentativo di far rinascere una cultura popolare e in generale tutta una serie di prese di posizione anche in ambito internazionale che non andavano bene semplicemente alle potenze coloniali e appunto in particolar modo quelle francesi. E infatti due dei protettori di Bob Denard da un punto di vista degli stati che stavano dietro, che propugnavano questo colpo di Stato e che rifornivano Denard di soldi e di uomini, erano il Gabon e in particolare il Marocco, il regime di Hassan II, che non aveva digerito, cercava in tutti i modi di colpire la democrazia del Benin, perché da poco tempo c'era stato il riconoscimento del Polisario da parte del governo beninese. E è famoso il richiamo alla resistenza da parte del governo e un messaggio alla radio di prima mattina del presidente che diceva più o meno così: un gruppo mercenari assolto dell'imperialismo internazionale ha innescato questa mattina all'alba un'aggressione armata contro l'eroico popolo del Benin e la sua rivoluzione democratica e popolare, attaccando la città di Cotonou. Di conseguenza ogni militante e attivista della rivoluzione del Benin, ovunque si trovi, deve considerare e agire come un soldato al fronte, impegnato in una lotta per salvare la patria e la democrazia del Benin. E dopo alcune sporadiche battaglie tra gli uomini di Denard e l'esercito e gli abitanti di Cotonou, accorsi appunto a difendere questo principio di democrazia, e nonostante la superiorità militare dei golpisti e le perdite inflitte all'esercito del Benin e all'uccisione di civili nelle strade di Cotonou, alla fine Denarde fu costretto alla fuga. E tra l'altro, lasciando, essendo una fuga precipitosa, lasciando molti elementi che hanno di fatto svelato quelli appunto erano i mandanti di questo tentativo di colpo di Stato, e quindi Gabon e Marocco e i servizi segreti francesi. Una delle cose principali che portano ad accusare il Marocco è che sono stati ritrovati proprio sul terreno elementi che hanno dimostrato ai mercenari si erano addestrati a Ben Gerir in Marocco prima di essere inviati per essere inviati in Gabon per cambiare l'aereo che l'avevano trasportati dal Marocco da Ben Gerir a Gabon, e cambiare gli aerei e poi dal Gabon prendere ulteriori aerei per atterrare a Cotonou. E appunto questo pezzo, inciso su 45 giri proprio pochissimo dopo, pochi giorni dopo questo fatto, questa resistenza da parte dell'esercito e del popolo beninese, l'orchestra Polirritmo Cotonou ha inciso questo pezzo che si intitola appunto Onore ai martiri del 16 gennaio. Deso savon beneto benefit de buka mina oya ahwan bi o gera ko pe han sin ko fun e o ahwan mu kon mi godo yin ma tin to hlemiton ewe mi lo ki pe do e A moi, hein? Mina fun kaka ito. Okuo eno ino, o martire ton Jesu da hoe ino, eni kunu tometon. Bio kera persi, ye kwedo milo. Awale po, mi blote menda kweda yi. Okuo eno ilo, o matile ton L'inizio musicale dell'orchestra Poliritmo de Cotonou è funky soul, ma lo spettro musicale in cui si muovono è molto più vasto e include salsa, soukous congolese e soprattutto, tipico della loro terra, i ritmi del voodoo. È una miscela più vicina al rock che al jazz dell'afrobeat. Da subito la gioventù berlinese se ne è innamorata. A colpire di loro è la loro capacità di plasmare un suono ricco e complesso che va dalle cadenze poliritmiche ai bassi funky. L'uso della voce e dei cori di alcuni brani si riaggancia più scopertamente alle radici del ritmo voodoo. Ci ascoltiamo adesso un brano che è uscito solo in 45 giri, quindi praticamente non è mai stato digitalizzato. L'ha digitalizzato il proprietario, diciamo, di questo 45 giri, quindi il suono è un po' sporco. Quindi orchestra Poliritmo, Pourquoi pas. Tu anumino tu kaniwa to sikaloniwa o pede pede njonu mejito pede pede mablo nu toila endi jon mablo nu na e endi jon mablo nu toila Sabato 24 novembre, al CSA Next Emerson di Firenze, alle ore 20, presentazione di Scarceranda 2019. L'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Tutte le info su www.csanextemerson.it. Da questa trasmissione abbiamo parlato spesso di tante donne, cantanti, musiciste che hanno lottato contro le mutilazioni genitali femminili e secondo uno studio che è molto recente, la percentuale di mutilazioni genitali femminili tra le giovani donne in Africa è calata drasticamente negli ultimi 20 anni. Le mutilazioni sono pratiche tradizionali che non hanno mai avuto una finalità terapeutica, ma vengono considerate riti di passaggio all'interno della comunità per preservare la virginità prima del matrimonio e la fedeltà coniugale. Queste pratiche possono ledere fortemente la salute psichica e fisica delle bambine e donne che vi vengono sottoposte. Possono soffrire per sempre di forti dolori, problemi mestruali e avere complicanze durante il parto. La maggior parte delle vittime muore per via di emorragie o infezioni durante o dopo le pratiche rituali. Usando i dati di 29 paesi a partire dal 1990, questo studio ha scoperto che il calo più cospicuo è avvenuto nell'Africa orientale. Il tasso di prevalenza nelle ragazze è crollato dal 71% nel 1995 all'8% nel 2016. I ricercatori affermano che alcuni paesi come il Kenya e la Tanzania hanno contribuito ad abbassare la media grazie a prevalenze che si aggirano tra il 3 e il 10%. Nel Nord Africa la prevalenza è scesa dal 60% del 1990 al 14% del 2015. E anche nell'Africa occidentale, scusate, è stato registrato un calo passando dal 74% del 1996 al 25% del 2017. In ogni caso, molti attivisti sostengono che anche se le bambine sono le più a rischio, anche le ragazze e le donne adulte subiscono le mutilazioni. E queste non sono state incluse nello studio. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono tra 100 e 140 milioni le bambine, le ragazze e le donne nel mondo che hanno subito una forma di mutilazione genitale. L'Africa è di gran lunga il continente in cui il fenomeno è più diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età superiore a 9 anni vittime di questa pratica e circa 3 milioni di altre che ogni tanto si aggiungono al totale. E il prossimo è un altro pezzo inciso su 45 giri, anche in questo caso appunto inciso su 45 giri dall'orchestra Poliritmo. Pensate che per catalogare i 45 giri che hanno inciso vengono utilizzati una doppia lettera, una sigla con due lettere iniziali seguite da un numero, in questo caso è la BB118. In questo modo viene classificato questo 45 giri dell'orchestra Poliritmo. Il pezzo si intitola Alissa Wegea Akbe e come moltissimi altri pezzi, e a differenza del pezzo ascoltato precedentemente che era in francese, in questo caso appunto Alissa Wegea Akbe, che è il titolo del prossimo pezzo, in lingua Fon, che è la lingua principale del Benin e che è la lingua in cui sono cantate la maggior parte delle incisioni dei pezzi dell'orchestra Poliritmo, ma per loro scelta e anche perché i componenti appartengono alle varie etnie presenti nel paese, ci sono anche altri pezzi, ci sono pezzi che diciamo sono cantati nelle altre lingue del Benin. C'è anche da ricordare che Benin è un nome dello Stato e che è stato chiamato così appunto quello Stato da metà degli anni 70, quando appunto era al governo, sostenuto appunto da parte della popolazione Kerekre, nel periodo appunto di cui abbiamo parlato precedentemente, cioè a proposito di questo colpo di Stato ordito contro la democrazia beninese da parte delle forze reazionarie sia africane che francesi, ecco, in questo caso a parte la potenza coloniale francese. Questo Stato, questo pezzo di terra veniva chiamato precedentemente Dahomey, prendendo appunto il nome da quello che era il regno del Dahomey, e a cui abbiamo parlato anche questo non in maniera diffusa ma sottolineando in particolare delle amazzoni del Dahomey, era questo corpo femminile di guerriere che è una particolarità, una unicità diciamo nella storia non solo dell'Africa ma praticamente di tutto il mondo. Ci sentiamo appunto questo pezzo dell'orchestra Poliritmo, Alissa Wegea Akbe. Alissa, Alissa, yeah. Alisae, Alisawa Jahakwe. Alisae, Alisawa Jahakwe. Alisae, Alisawa Jahakwe. Amonu ne uno nudo mewenu, amosi peru moroka. Amonu ne uno nudo mewenu, amosi peru moroka no mewenu popo. Alisae, Alisawa Jahakwe. Si peru monoka amonu de uno no dome amosi peru no kanu de fo fo alisae alisae jehabe alisae alisae jehabe alisae alisae jehabe alisae alisae jehabe. Anniversario misconosciuto, possiamo definirlo così. Nel 1963, proprio in questi giorni, cioè il 13 novembre, sbarca dal St. Charles questa barca, questa barchetta sull'isola di Bourbon, che oggi è l'isola della Réunion, e il primo residente stabile francese Louis Payen, con 10 schiavi malgasci, fra cui 3 sorelle, e che questi schiavi fuggirono subito dopo l'approdo, dandosi al marronaggio, alla fuga, che poi marronaggio e maroon, le maroon town, cioè i posti in cui si ritrovavano gli schiavi fuggiti appunto dagli schiavisti. E appunto questi francesi sbarcano sull'isola Bourbon, che ora si chiama appunto Réunion, gli schiavi scappano subito e per un paio d'anni rimangono in fuga, e danno luogo a quella che è la popolazione tuttora la novità, diciamo, quella è tuttora la popolazione delle isole Réunion. Nel 1779 c'è una rivolta, tentativo di rivolta, viene chiamata la rivolta di Pentecoste, nella cittadina di Saint-André, nell'isola francese. Questa rivolta, appunto, gli schiavi sono la componente predominante, prevalente di quello che era appunto il gruppo che ha tentato questa rivolta. Il prossimo pezzo dell'orchestra Poliritmo che ascoltiamo è African Lon Lon, è tratto dall'album di cui avevamo parlato prima, l'ultimo, quello uscito nel 2015, che si intitola Maja Fallo. Quindi African Lon Lon, l'orchestra Poliritmo de Cotonou. Africa lolonye, yeah. Africa. Africa mon amour, Africa. Berceau de l'humanité, Afrique Mandela, Africa. Terre des Amazones, Africa. Terre des pharaons, Africa. Berceau des divinités, Africa. Oricha et Django, Africa. Je chanterai pour toi, Africa. Mes meilleures mélodies. Afrique Mandela, Africa. Terre des Amazones, Africa. Terre des pharaons, Africa. Berceau des divinités, Africa. Oricha et Django, Africa. Je chanterai pour toi. vi ricordiamo, siete all'ascolto di Urum, suoni, musica e notizie dal continente africano in onda su Radio Wombat il venerdì in diretta alle 21.30, la domenica in replica alle 23 e lunedì sempre in replica alle 8.30 la mattina. Radio Wombat si ascolta, la state ascoltando in streaming il sito wombat.noblogs.org, oppure potete ascoltare su onde medie nella zona di Firenze l'1359. Potete ascoltare le trasmissioni di Uru, le puntate di Uru, così come tutte le trasmissioni, le puntate di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, andando al sito sempre su wombat.noclos.org, in questo caso alla sezione podcast. L'ultimo pezzo dell'orchestra Polirritmo Cotonou, Volu. Ah, yeah. Ah, yeah. Wolu, woli, wota. finisce qui questa puntata. Ciao a tutte e tutte e vi aspettiamo alla prossima. Ciao ciao. Zia chabu latina, zia chabu latina, zia chabu latina, zia chabu latina, whoa Ethiopia, whoa Uganda, whoa Kenya, whoa Tanzania, whoa Ghana, whoa Nigeria, zia chabu latina, zia chabu latina. Zia chabu latina, zia chabu latina, mama.